La Anthony Perkins Productions presenta Harry Burr, 45 minuti ai margini dell'arte. Ascoltatori di Radio ZAM, un benvenuto da Luca alla terza puntata di Harry Burr. Come vi sarete accorti, l'alternanza di Harry Burr è tra artisti marginali di diverse arti. Quindi, dopo una cineasta, anche se in parte scrittrice, pittrice, e uno scrittore, tocca a un musicista, anzi a una signora musicista in tutti i sensi. L'odierna puntata di Harry Burr è dedicata infatti a Jenny Sorrenti, sorella del più famoso Alan, voce solista di un complesso napoletano che si chiamavano i St. Just e poi protagonista di un'importante carriera solista, anche se non ha avuto troppe, insomma, riscontri a livello commerciale, ma si può dire che è stata sia con il gruppo che da solista che in altri rassemblement una delle assolute protagoniste del cosiddetto Neapolitan Power.

fiume, per me esiste. Yeah. Troisi? Troisi? Massimo Troisi? Troisi? Troisi? Chi è? Funiculi funicula. Eh? Funiculi funicula. Funiculi funicula, io... Sto qua, dietro la tenda. Non ti muovere che sennò sei morto. Traditore. Pure tu sei venuto a Napoli a fare il Festival Nuova Napoli. Traditore. No, io... Perché non ti piace Napoli una volta? Ma non piace, io sono venuto per fare il festival perché mi hanno chiamato. Guardate. E non lo devi fare. No, signor Funicoli, Funicola, guardate che a me mi hanno detto venite a fare il festival. Io sono venuto. E non dovevi venire. Ma state dietro la tenda. Sto dietro la tenda. Sono venuto apposta per te perché pure tu come all'altro dici che a Napoli ha da cagnare. No, infatti a me mi piace Napoli com'era. Infatti poi la gente pure caccia, sono maniaco. Non mi maniaco? Maniaco per modo di dire, ma perché loro vi chiamano così, eh? Io ve lo dico a voi, io la gente, ma quello è un po' nervoso, cioè signor, nervoso. Loro dicono maniaco, la gente come vi chiamano, maniaco. E la gente, ma non mi pare il caso, una persona lo chiama subito se esagero maniaco. Io non lo faccio festival. Bravo! Perché io... Paga la voce! No, parla così la mattina, mi schiarisca la voce, che io non mi piace. Abbassa la voce! Signor Manico, nervoso, funicola, guardate, io, a me mi piace Napoli in una volta, io vi giuro, a me mi piace tutte le cose in una volta, solo pizza, mandolino. E perché dici che Napoli ha da cagnare allora? Ma chi ha detto che, anzi, proprio che se loro dicevano, vieni perché Napoli ha da cagnare, ma perché sempre su parte Napoli ha da cagnare? Ma sul cagnato un po' Mantova, Rovigo, ho sempre uguale che lì là. Oh, io sono chiuso mo, non perché sono chiuso là con mio padre che era vicino 10-15 anni fa. Sono tornato mo uguale. E poi venne a Napoli che c'è il cagnato, sì, cagniamo Napoli, cagnato Rovigo. Bene, quindi siamo entrati subito in argomento con un pezzo di Saint Just cantato da Jenny Sorrenti, La Casa sul Lago, dal secondo omonimo disco, anche l'ultimo di Saint Just, e poi avrete riconosciuto, penso, anche se un po' diversa da come la ricordavate, se pensavate a Figli delle Stelle, la voce del fratello Alan dal suo primo disco, il capolavoro Aria, un fiume tranquillo era il pezzo. E quelle due voci napoletane che avete sentito dopo sono tratte da un film, No Grazie, Il Caffè Mi Rende Nervoso, di Lodovico Gasperini, che era il primo film solista di Lello Arena, anche se non l'aveva diretto lui, il primo film, dico, dopo di lo scioglimento del fantastico trio La Smorfia. Un film curioso che ho messo qui perché rappresenta una Napoletan Power, perché in questo film c'era un amante della tradizione che si faceva chiamare Funicoli Funicolà, che uccideva una serie di simboli della nuova Napoli, e in questa scena, come potete immaginare, ne faceva le spese il povero Massimo Troisi nella parte di se stesso. Cancelli di una fabbrica, vorrei incontrarti lungo le strade che portano in India, vorrei incontrarti ma non so cosa fare. Forse di gioia io di colpo piangerei, vorrei trovarti mentre tu dormi in un mare d'erba e poi portarti nella mia casa sulla scogliera, mostrarti i ricordi di quello che io sono stato, mostrarti la statua di quello che io sono adesso. Oh! Riconoscere, canta la tua canzone, cantala per me. Forse un giorno io canterò per te. Sul punto di cadere, tra mille volte il tuo riconoscere, canta la tua canzone, cantala per me, forse un giorno io canterò. aspettavi il sorriso di tuo Sorrenti, la nuova Napoli nacque? Nacque nel 70 più o meno. Chi furono gli esponenti primi? Ma gli esponenti, dunque, io, Edoardo Bennato, Alan Sorrenti, Tone Esposito, Eugenio Bennato, Pino Daniele, e poi tutti i vari musicisti che suonavano con noi in quel periodo, che si alternavano. Ma c'era un sentimento di rabbia, di reazione, o nacque così a tavolino questo modo? C'era un sentimento di grande poesia e di grande romanticismo, cioè c'era un grande amore, una grande voglia di iniziare qualcosa di nuovo, soprattutto di andare un po' controcorrente, no? A quello che era allora la musica, che era praticamente solo Sanremo e basta. E sì, quindi c'era anche rabbia, perché in genere abbiamo iniziato in posti abbastanza assurdi. Dove? Dimmi nomi. Io personalmente provavo in una zona di Soccavo, quindi freddissima, che c'erano persino i topi che ci passavano davanti. E niente, provavamo lì, facevamo delle session lì. Con chi suonava? Io suonavo con Tony Verde, che allora avevamo quel famoso gruppo che si chiamava Saint Just, e con Bobby Fix, poi veniva anche Tony Esposito, con Alan. Noi ci alternavamo, cioè io suonavo per esempio con Tony e lui suonava con noi, poi ci univamo e suonavamo tutti insieme. Quindi sì, c'era un sentimento di rabbia, perché in effetti eravamo costretti a suonare in condizioni assolutamente assurde, buie, grigie. Però era bello perché, ti ripeto, c'era un grande amore e un scismo in tutto. Quale fu il primo concerto, chiamiamolo così, grosso, il primo avvenimento? Mio? Tuo e anche dell'epoca, che fece coinvolgere un po' tutti quanti. Il mio primo concerto a Napoli, tu dici? Sì. Il mio primo concerto fu un concerto al Mediterraneo. Io ero quasi una bambina e tremavo dalla paura, infatti tremava anche la voce insieme alla paura. E comunque fu appunto al Teatro Mediterraneo. Io suonavo con i Saint Just e c'era anche Alan che suonava, e con me suonava Bobby Fix e Tony Verde, perché avevamo questo gruppo Saint Just. E niente, fu un'esperienza molto bella, perché per me era tutto completamente nuovo, per me era una nuova dimensione, una nuova vita. E avete potuto riconoscere stavolta due fratelli insieme, Alan e Jenny, che interpretavano la canzone più famosa dell'Alan Sorrenti, prima maniera, quello Progressive. Vorrei incontrarti, che era tratta dal suo primo bellissimo album Aria. E dopo, invece, Jenny intonare un'altra canzone del repertorio Saint Just, Una bambina, però accompagnata dagli Osanna, che erano un altro dei gruppi della Neapolitan Power, di cui Jenny Sorrenti stava raccontando gli inizi in un'intervista radiofonica. Thank you. E allora ti piacciono tutte cose in Napoli una volta? Tutto, guardate, là fuori ci sta i guardi grossi, due guardi che stanno così, voi potete scappare. Ferma! Non chiama nessuno che sennò si è morto. No, è proprio per fare un po' di movimento la mattina, ma uno sa io con tutti. Se vai al festival, lo movimento te lo faccio fare io. Signor, a me mi hanno detto fare la lodola, finire. Io sono venuto e manico, poi specchietto, non lo so, eh? Io non lo faccio, decidete che l'ho pulito voi. Bravo, tu hai dicendo sempre che ti piace solo la pizza, che le belle cose nostre. A me piace solo la pizza, tutte cose. O mandolino? Mandolino. O mandolino non ti piace? No, mi piace. Io sempre, vi giuro, guardate, per esempio io mi rado solo che la pizza che mangio solo mandolino. No, mi piglio cose, ma non lo so, mi pare che non mi abbronzo, non mi sa. Non... E canzone? E canzone? Canzone come? Con mandolino, mica un forno di pizza, sono, no? Sono solo pizza e mandolino. Quali canzone ti piace? Tutto quanto. Tutto quanto? Tutte le canzoni, regine, quando si va pure, riuscite in giro, tutto quanto. E allora cantami Paloma, che è quello che mi piace è più. E più? Paloma, conosci? Paloma? Cantami Paloma. Paloma? Devi fare all'inizio solamente, signor Manico, funicoli, nervoso, solamente le prime parole, che a me mi ricordo. Paloma, Paloma. Paloma, è tanto tempo, una cosa troppo, Paloma, Paloma. Paloma, Paloma. No, che strada hai fatto prima, signor Manico, funicoli. Un po' grosso, Paloma. Paloma, Paloma, camola, cantana, luciore. Camola, non la sai. La saci, come l'hai fatto? Paloma, Paloma, camola. Basta, non mi convinto. Si è venuto a Napoli a fare un festival, è mora accesa. No, io non lo faccio, funicoli, state tranquillo. Io non lo faccio, signor funicoli. Signor funicoli. Fusco! Fusca! Almenieri! Maranieri! Ah! Fusco! Siamo giunti così alla fine della terza puntata di Areburs. Avete ascoltato prima la colonna sonora di Milano, calibro 9, che non c'entrerebbe nulla con Napoli se non fosse che ad eseguirla erano gli Osanna, che abbiamo nominato prima, e anche il resto della scena di cui abbiamo sentito l'inizio prima, tratta da No, grazie, il caffè mi rende nervoso. E adesso non ci resta altro che sfumare insieme ai calibro 35 verso il proseguire dei programmi di Radio ZM. Noi ci risentiamo il prossimo mercoledì. Buonanotte. Arebur, 45 minuti ai margini dell'arte.